Questo mercoledì, quando ha appreso che il Presidente del Consiglio, nello sforzo di chiedere alla Camera dei Deputati di approvare l'invio delle truppe in Albania, aveva espresso l'intenzione, ove Rifondazione Comunista avesse votato contro, di recarsi dal Presidente della Repubblica per informarlo del fatto e rimettersi alle sue valutazioni, mi sono sforzato di immaginare l'incontro. Mi sono immaginato uno Scalfaro che esordiva, che so, con «Caro Prodi, che piacere vederla, come va?» E Prodi che ribatteva «Mesto, mesto, male, Presidente, va male!» E alle affettuose richieste dell'uomo del Colle che si informava su che cosa non funzionasse, la salute, qualche problema in famiglia, i ragazzi magari, che sono sempre una preoccupazione, rispondeva accorato «No, Presidente, peggio, molto peggio. Quelli di Rifondazione hanno votato contro la missione in Albania». E anche probabilmente il Presidente si sarebbe turbato, «Porco sciampino», avrebbe detto, utilizzando una vecchia espressione novarese che ricordo di aver sentito sulle labbra della mia vecchia nonna, che di Scalfaro era conterranea. «E adesso che succede della sua maggioranza?» «Non lo so», avrebbe risposto Prodi sconsolato. «Alla Camera ho detto che mi sarei rimesso a lei». «Ha fatto bene, Prodi, ha fatto bene. Dunque, vediamo cosa si può fare». Ecco, mi è venuta un'idea. Domani lei se ne torna alle Camere e chiede la sua bella fiducia. Se gliela danno, è a posto. Nessuno può dire niente. E Prodi, profondendosi nei ringraziamenti e dichiarando che a lui un'idea così brillante non sarebbe venuta in un milione di anni, avrebbe potuto riprendere la via di Palazzo Chigi. Non credo che sia andata così. Non soltanto perché Scalfaro, come si sa, legge i giornali, guarda la televisione, è provvisto di un impianto telefonico perfettamente funzionante e forse ha persino il modem, per cui sa benissimo cosa succede alla Camera senza che il Presidente del Consiglio si disturbi ad andare a informarlo di persona. Ma anche perché notoriamente Prodi sapeva già che cosa Scalfaro avrebbe deciso prima di annunciare l'intenzione di andare a chiederglielo, e oltre a lui lo sapevano tutti. Tutti i leader politici, compresi quelli del Polo che hanno votato a favore del governo pur sapendo benissimo che il giorno dopo si sarebbe fatto dare la fiducia alla Rifondazione, e quelli di Rifondazione che hanno votato contro il governo pur sapendo benissimo che il giorno dopo gli avrebbero dato la fiducia. E perché gli eventi politici degli ultimi 4 giorni si sono svolti secondo un copione noto nei più minuti dettagli a tutti i protagonisti, e anche a noi non protagonisti, e ai professionisti incaricati di farne la cronaca, che poveretti hanno dovuto arrangiarsi come potevano per creare quel po' di suspense che riuscivano a creare con degli episodi minori, come la non partecipazione di questo o di quello alla riunione dei capigruppo, o il tono dell'intervento, o con simili banalità. Da un punto di vista strettamente tecnico, hanno recitato tutti, Prodi, Scalfaro, i video del Polo, i video dell'Ulivo, i video della Rifondazione, hanno recitato tutti quella che di solito si chiama una sceneggiata. Ma siccome, pur mentendo tutti per la gola, non agivano evidentemente nel presupposto di riuscire a ingannare gli altri, è ovvio che quella sceneggiata non era un semplice tentativo di turlupinare il prossimo, aveva un significato, un valore che siamo chiamati a individuare. E a pensarci bene, forse sceneggiata non è neanche la definizione giusta. Trattandosi in ultima analisi di una serie di atti formali previsti da un cerimoniale invalso e finalizzati ad esprimere un valore, forse il termine esatto è quello di rito. E una volta stabilito che non a un dibattito politico abbiamo assistito, ma alla celebrazione di un rito, un bel po' di contraddizioni svaniscono come per incanto. Ora, non stiamo a chiederci che cosa quel rito volesse esprimere con precisione. Può darsi, anzi è molto probabile, che ciascuno dei celebranti volesse qualcosa di diverso dagli altri. Ma è poco ma sicuro, come succede sempre in circostanze del genere, che tutti volessero avvalorare soprattutto se stessi, il loro potere di fare quello che avevano deciso di fare. Perché se lasciamo perdere le intenzioni e badiamo ai risultati, è abbastanza incontestabile che il governo in carica è riuscito col pieno consenso di tutte le forze politiche o quasi a farsi votare la fiducia da un certo insieme di gruppi politici e a farsi approvare un'importante decisione di politica estera da un altro. Il che significa che la famosa formula del governo di minoranza, delle maggioranze variabili, quella che a parole rifiutano tutti, nei fatti è stata felicemente instaurata con l'approvazione generale. Il che è interessante perché quella formula quella secondo la quale un governo può prendere tutti i provvedimenti che cavolo gli pare senza sentirsi in alcun modo legato alle preferenze e alle intenzioni di chi ha votato per lui, perché in caso di necessità può farsevi sempre approvare dall'opposizione, quella formula è assolutamente antitetica alla logica del sistema parlamentare vigente e per di più è fermamente respinta dalla maggioranza degli elettori di tutti e due gli schieramenti. Deve essere questo il vero significato di par condicio. Mm.